Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e immagino ci sono anche molti italiani in viaggio, ci arrivano segnalazioni anche di qualche difficoltà, come era presumibile, nel traffico. Di cosa ci occuperemo oggi? Riprenderemo un tema che non siamo riusciti a trattare venerdì, inizieremo a dare anche qualche prima stima, ovviamente del tutto parziale, su quelli che sono i costi che dovranno essere sostenuti per le nuove ondate sismiche che hanno colpito, come avete ascoltato anche da Radio 24 in diretta in questi giorni, e Umbria è sostanzialmente la parte che è come epicentro Norcia, ma ripeto, sono stime del tutto provvisorie, c'è lo stanziamento immediato di 40 milioni deciso dal Consiglio dei Ministri, ricordo che già furono messi a disposizione 356 milioni dopo il sisma del 24 agosto, adesso vi sono altri 530 milioni spalmati fino al 2022, questo però per quello che riguarda il sisma del 24 agosto. Sul fronte della ricostruzione dal 2017 al 2047 sono previsti stanziamenti per circa 7 miliardi e 100 milioni di euro, di questi un miliardo dovrebbe essere destinato tra il 2017 e il 2020 a scuole ed edifici pubblici. Colpite anche se mi rendo conto che in questo momento l'urgenza e la priorità sia ancora sul stato di sicurezza e soprattutto di gestione degli sfollati, circa 30.000 persone, ma dicevo colpite anche 11.000 piccole e medie aziende che impiegano direttamente circa 40.000 addetti. Di questo parleremo in apertura e poi invece la vicenda da un lato Monte dei Paschi che tratteremo durante la borsa, che cosa è successo? Definitivamente abbandonata l'ipotesi del piano Passera, si è ritirato lui stesso, ha detto sostanzialmente che non c'erano le condizioni per andare avanti. Il titolo come reagisce? Allora, leggermente positivo, era anche più positivo in una seduta molto volatile in cui la borsa ha cambiato segno, la borsa milanese perde infatti l'1,20%, Parigi perde lo 0,80%, Francoforte meno 1,20%, Londra meno 0,40%, Dow Jones meno 0,42%, dicevo ha cambiato segno, resta ancora leggermente positivo il titolo Monte dei Paschi più 0,30%, positivo Telecom Italia dello 0,80%, Mediobanca di mezzo punto percentuale, A2A di mezzo punto anch'essa. Invece il calo che riguarda il settore è significativo su Case New Holland, CNH Industrial meno 5,30%, di nuovo su ST Microelectronics meno 3,80%, Ferrari meno 2,40%, Unicredit meno 2,20%, come ricordati il 2% lo perde Hughes Net-a-Porter e Banca Mediolanum, Prismian meno 1,70% come UbiBanca, Snam e FinecoBank, Eni perde l'1,50% come Buzzi Unicem. Parleremo chiaramente anche di borsa in questa seduta, in questa giornata e puntata, ma chiuderemo poi con il tema relativo da un lato alla lettera mandata a Bruxelles, la risposta che è arrivata a Bruxelles proprio sul tema legge di stabilità, legge di bilancio italiana, che insomma non sembra piacere all'Unione Europea, tra l'altro sembra proprio non piacere anche il tipo di rapporto e la piega che ha preso il rapporto tra Roma e Bruxelles. Ci sono insomma accuse di troppo populismo, buon mercato e di tecnocrazia, però insomma si cerca di arrivare anche a una soluzione per quello che riguarda invece le risorse straordinarie dovute al sisma. Di questo, ripeto, parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ricordo che la puntata di oggi, essendo una giornata festiva, termina alle 18 e dalle 18 alle 18:30 avremo anche una puntata di un'iniziativa che stiamo seguendo con attenzione, che riguarda il mondo di Dylan Dog, per chi lo conoscesse. Allora, dicevo della borsa, volete sapere dell'euro a quota 1,10, andiamo intanto con le altre notizie in breve. Allora, a questo punto dovrebbe essere ufficiale, dal gennaio 2018 debutterà, ce ne siamo già occupati anche in Italia, la cosiddetta lotteria fiscale, quindi con il sorteggio degli scontrini. Una misura che, come abbiamo ricordato anche quando era uscita la notizia, è stata già sperimentata in Cina, a Taiwan, ma per quello che riguarda l'Europa, soprattutto in Portogallo e in Slovacchia, per fare emergere sostanzialmente il sommerso, soprattutto sull'IVA, con risultati molto molto significativi nel caso specifico in Portogallo. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Lo sapevate che dal 1 gennaio del prossimo anno, in via sperimentale, poi in modo definitivo dal 2018, si potrà partecipare a una grande lotteria fiscale? Sì, avete capito bene, una vera estrazione a premi tra scontrini, ricevute e fatture, purché abbiano il codice fiscale fornito dal cliente al momento dell'acquisto. Ancora non si sa nulla su monte premi né sulla frequenza delle estrazioni, ma c'è la buona volontà. E chissà, magari essere estratto potrebbe essere proprio il vostro codice fiscale. Lo prevede il disegno di legge di bilancio appena trasmesso alle Camere per l'avvio dell'iter di approvazione. Lo Stato punta a recuperare gettito, sapendo quale sia l'attrattiva che il gioco ha verso gli italiani. Potranno partecipare tutti i contribuenti, persone fisiche e residenti appunto nel territorio italiano, che effettuano acquisti di beni e servizi come privati cittadini e quindi non necessariamente nell'attività di impresa o di lavoro autonomo. È necessario però che il venditore o l'esercente abbiano già optato per il dialogo telematico con l'Agenzia delle Entrate e che effettuino già i trasferimenti delle somme dovute al fisco per via digitale. Il governo italiano, come scritto nella redazione tecnica di accompagnamento al testo della legge, guarda al caso del Portogallo, soprattutto che per primo ha introdotto in Europa la lotteria fiscale. Risultato? Nel primo anno di applicazione ha avuto un aumento del gettito fiscale dell'8,7%. Mica male, ma non tutto è dovuto all'effetto della lotteria, che in realtà ha pesato per un incremento del 7% delle entrate. A Taiwan, che fa sorteggi di questo tipo dagli anni 50, gli incassi dell'IVA, ad esempio, sono aumentati del 20%. Fatti due conti, ma non scritti nella relazione tecnica, forse per pudore o per scaramanzia, se l'Italia potesse ottenere un risultato come quello del Portogallo, potrebbe recuperare fino a un paio di miliardi l'anno. È meglio non contarci troppo, però, perché siamo pur sempre italiani, non portoghesi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo avanti con altre notizie. Invece, i rimborsi forfettari, siamo in Italia, già liquidati dal fondo interbancario per gli obbligazionisti delle famose quattro banche coinvolte nel salvataggio, ricorderete Etruria, Ferrara, Chieti e Marche, hanno superato i 7.700.000 euro, e con il prossimo flusso di mercoledì si arriverà intorno ai 10 milioni, così il vice direttore del fondo interbancario per gli obbligazionisti. Sono arrivate 3.400 domande, si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di piccoli, piccolissimi risparmiatori, quelli liquidati, per il 97% dei quali l'importo era inferiore ai 50.000 euro e di questi il 60% aveva un importo anche inferiore ai 10.000 euro quanto obbligazioni. Mi chiedete del piano Passera, adesso ci arriviamo. Sostanzialmente Corrado Passera oggi ha formalizzato la sua rinuncia di ritirare quindi l'offerta per il Monte dei Paschi. La motivazione sta nell'ostacolo rappresentato dalla richiesta di avviare la due diligence sui conti del gruppo, che non è stata accettata. La disponibilità infatti è stata solo quella di permettere a Passera l'accesso alle informazioni che verranno rese note con la data room, ma la richiesta di Passera di andare oltre, di vedere e analizzare nei dettagli i numeri della banca. Il Monte dei Paschi, in una nota oggi, ha preso atto della decisione di Corrado Passera di ritirare la sua proposta dello scorso 13 ottobre. Si trattava di una proposta non vincolante formulata per conto di investitori di cui non sono state rese note le generalità, sottolinea Monte dei Paschi, e non ancora solidificata. e le argomentazioni offerte da Corrado Passera vengono definite in questa nota del Monte dei Paschi infondate e incompatibili con i principi di parità informativa, con la necessità di proteggere le informazioni. Oh, tra le cose che non siamo riusciti a trattare la settimana scorsa, venerdì, che è sempre una puntata delicata per via della classifica, c'è anche una buona notizia, e in queste giornate se ne trovano veramente poche con l'unicino, visto che da sempre noi chiediamo maggiore aggregazione e sinergia e coordinamento in tutte le attività che devono promuovere il Made in Italy di qualunque settore, agroalimentare, meccanica, non importa. E questo vale sia per chi deve aiutare i nostri imprenditori all'estero, e mi riferisco al coordinamento ICE, SACE, SIMEST, consolati, camere di commercio all'estero, e la richiesta di arrivare a uno sportello Edenit, a uno sportello Italia, un po' come funziona in Germania, in cui l'imprenditore che deve andare in quel paese abbia in un unico luogo tutti questi aiuti, sia nella necessità che il sistema fieristico italiano, che è importantissimo e da sempre rappresenta un'importante vetrina in casa del Made in Italy, lavori in maniera più coordinata. Il ministro Calenda su questo era stato molto netto un anno fa, ha detto: noi daremo i soldi solo alle fiere che lavorano in maniera coordinata, non si fanno guerra interna e possibilmente anche, non dico che si fondono, ma lavorano in simbiosi. È arrivata, volevamo trattarla venerdì ma la recuperiamo oggi, è arrivata la nascita della Italian Exhibition Group SPA, cioè la nuova società fieristica frutto della fusione tra la Fiera di Vicenza SPA e Rimini Fiera. Daranno vita i due poli che si sono uniti al primo esempio in Italia di integrazione tra società fieristiche e, se ho ben capito, primo soggetto in Italia per numero di manifestazioni organizzate direttamente. Chiedo conferma al vicepresidente, che era presidente, adesso non lo è più, di Fiera di Vicenza, Matteo Marzotto, buonasera. Buonasera, Zio Bazzoni. Allora, dicevo, ogni tanto qualche buona notizia arriva, ripeto, non è che basti fondersi, però è già un primo passo. Voi organizzate 61 manifestazioni, come manifestazioni dirette, dal food and beverage, wellness, technology, e 160 tra eventi e congressi. La fusione è sicuramente societaria, ma l'obiettivo operativo qual è? Ma diciamo, innanzitutto sottoscrivo tutto quello che ha detto: è possibile farlo, è possibile farlo in questa Italia di oggi, è possibile farlo anche leggendo, diciamo, un'indicazione del governo di politica economica un po' nuova in qualche modo in Italia, anche se è un progetto industriale che abbiamo pensato noi. L'obiettivo è quello di quotare. Però l'obiettivo è evidentemente anche quello di mettere insieme due forze. Una volta tanto in Italia si mette insieme due plus e non due minus, oppure un minus e mezzo o un plus e mezzo, e questo l'abbiamo fatto in pochi mesi con una condivisione di vedute importante, prima di tutto industriale. Lei ha detto bene, 62 manifestazioni di cui il 90% in proprietà diretta, quindi eventi organizzati direttamente, e quindi numeri alla mano: il primo polo italiano per quanto riguarda la redditività col 19% di EBITDA combinato, il primo polo italiano per quanto riguarda il numero di prodotti in proprietà e la patrimonializzazione, e il secondo per fatturato, ma c'era qualcuno che diceva che il fatturato non è necessariamente la cosa più importante, anche se è evidentemente molto importante. Ecco, quindi siamo contenti, c'è una meravigliosa storia a Rimini, c'è una meravigliosa storia a Vicenza di local, di radicati, insomma di storie radicate nel territorio, di servizio a grandi filiere del Made in Italy, ma poi, diciamo, lo sguardo rivolto in tutti i mercati del mondo. Ecco, voi, se ho ben visto, prevedete un fatturato congiunto a questo punto di circa 120-119 milioni di euro, appunto, secondo player per fatturato. La fusione però vi darà anche nuove risorse, cioè, ho capito che mette assieme due punti di forza, ma questo in prospettiva con quale ambizione? Beh, noi dovremo quotare, noi abbiamo già dichiarato anche, diciamo, quando eravamo neanche fidanzati, avevamo un'idea di apertura al mercato, perché erano due società che funzionavano bene, ma che non avevano le dimensioni assolute per aspirare al mercato principale, ai mercati regolamentati. insieme riusciamo a esprimere una dimensione minima sufficiente e con un patrimonio molto importante. Mi sono dimenticato di dire che siamo anche il leader italiano della congressistica, con uno straordinario palazzo dei congressi a Rimini, ma anche una serie di attività e di altri asset, tra cui Vicenza, che verranno buoni per i grandi congressi e convegni internazionali. Quindi noi crediamo, speriamo, insomma dipenderà anche da, come dice lei, non serve, non basta unirsi, ma bisogna anche integrarsi. Sì, cioè in questo caso uno più uno deve fare tre. Senta, l'altra cosa che noi vediamo come elemento, come insomma tendenza nei poli fieristici o nei sistemi fieristici, ricordo, questo quindi vale per voi, ma vale anche per Fiera Milano, Fiera Verona, Bologna, sto citando quelli che conosciamo bene anche perché spesso noi trasmettiamo in diretta in alcuni appuntamenti da queste fiere, è la necessità di fare delle alleanze internazionali, cioè tu riesci a portare alcuni sistemi fieristici meglio in alcuni paesi se ti allei con le fiere o con degli enti lì sul territorio. Voi da questo punto di vista che joint venture, accordi, non so in quale forma societaria state prevedendo? Allora, noi siamo già diciamo operatori fieristici in tutto il mondo, nel senso che facciamo fiere come Fiera di Vicenza, per esempio nell'oreficeria e gioielleria, facciamo fiere già a San Paolo del Brasile o a Hong Kong o per esempio a Las Vegas, per dire, con delle piattaforme in cui portiamo le aziende italiane. Ugualmente Rimini ha una serie di prodotti di assoluto rilievo mondiale che replica in altre parti del mondo, sarà presto un'iniziativa importante a Chengdu in Cina e con uno dei prodotti più importanti. Ecco, noi vorremmo consolidare le leadership e guadagnare qualcosa anche in altri prodotti, oltre che vorremmo un po' da soli e un po' grazie alla quotazione, stavo per dire intorno al primo semestre del 2018, vorremmo poter anche acquisire prodotti nuovi da portare in Italia o da sviluppare in Italia. Allora, in bocca al lupo a voi e a tutti quelli che aumenteranno anche le dimensioni e la struttura. Io mi auguro che appunto questo sia solo l'inizio di un processo. Certo. Intanto però prendiamo atto e diamo atto soprattutto a chi l'ha già compiuto. Grazie quindi a Matteo Marzotto, a questo punto vicepresidente di Italian Exhibition Group, che è appunto la risultante della fusione tra Fiera di Vicenza e Rimini Fiere. Da un argomento positivo, perché ripeto positivo, adesso dobbiamo passare a un argomento assolutamente non negativo, tragico, ossia tornare a fare la conta e soprattutto anche un primo parzialissimo bilancio di quello delle stime sui danni che l'ennesima scossa di terremoto che ha colpito soprattutto l'Umbria ha generato sul territorio. L'aggiornamento per chi fosse in ascolto solo ora: questa mattina nuova scossa di terremoto magnitudo 4.8, epicentro nella provincia di Macerata tra i comuni di Acqua Canina Fiastra e Bolognola, si è sentito in maniera molto forte poco prima delle 9 tra Marche, Umbria e in alcune zone di Roma. Il sindaco di Ussita è disperato, la scossa è stata fortissima, ci sono stati anche crolli, è un calvario, non finisce mai. Castangelo sul Nera è raso al suolo e servono comunque con urgenza anche tenso strutture, non solo per i civili, sono oltre 30.000 le persone sfollate, di cui 25.000 nelle Marche e 5.000 in Umbria, ma anche a questo punto per quelle che sono le attività produttive. Per esempio mancano tutte le tensostrutture per le stalle, per gli animali. Abbiamo visto tutte le foto di una deformazione che si estende per un'area di circa 130 km quadrati, il massimo spostamento è di almeno 70 centimetri. Dalla prima scossa a questo punto si sono avuti e sono stati registrati oltre 1.100 eventi sismici. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al primo stanziamento di 40 milioni di euro. Come ricordavo, dopo lo scorso 24 agosto, per far fronte all'emergenza già erano stati messi a disposizione 356 milioni di euro, a cui se ne aggiungono altri 530 spalmati fino al 2022. Sul fronte della ricostruzione 7 miliardi, ma con una scadenza molto lunga, dal 2017 al 2047. E di questo, però, di questi 7 miliardi, 1 miliardo di euro dovrebbe essere destinato tra 2017 e 2020 a scuole ed edifici pubblici. Ci sono 11.000 piccole e medie aziende colpite, chiaramente oltre ai danni a persone e abitazioni, colpite dal sisma, 40.000 addetti impiegati direttamente. E qui c'è il tema anche delle attività produttive del territorio. Purtroppo non è la prima volta che ce ne dobbiamo occupare, penso all'Emilia e non solo. Questa mattina Simone Spezia ha fatto il punto proprio con la presidente di Confindustria Umbria, per la parte che riguarda la Valnerina, Spoleto Valnerina, Laura Tulli, proprio sui danni subiti dal tessuto imprenditoriale dell'area. Purtroppo siamo ancora troppo vicini all'ultimo evento sismico, i danni non sono ancora stimabili e lei capisce che sono peraltro di non facile quantificazione. Abbiamo abitazioni, imprese, attività commerciali, strutture ricettive in ginocchio purtroppo e una perdita incalcolabile di un patrimonio artistico e eccellenze che purtroppo anche la ragazza che ha parlato poc'anzi è un'eccellenza conosciuta in tutto il mondo e che sta passando purtroppo un momento di grande difficoltà. Che cosa servirebbe adesso secondo lei, Tulli? Di cosa c'è bisogno, oltre evidentemente ad una ricognizione sui danni che inevitabilmente non può essere fatta adesso e avrà bisogno di tempo, no? Assolutamente, in questa fase credo che il primo step sia cercare sicuramente di risolvere i problemi, i disagi e la viabilità. Purtroppo abbiamo ancora molte strade interrotte e chiuse che creano sia disagi e vanno poi ad aggravare comunque una situazione infrastrutturale che era già in parte carente, quindi sicuramente questa è la prima cosa a cui dobbiamo pensare. In secondo luogo dovremmo cercare insieme di capire come ripartire, perché è un territorio che deve assolutamente ripartire. Speriamo, ecco, di trovare la forza tutti quanti di poter portare nuovamente gente nel nostro territorio e di ridare vita veramente ad un territorio che è di una bellezza e di una forza unica. E poi c'è un tema che può sembrare cinico, ma in realtà quando si parla di soldi bisogna trattarlo, ossia la posizione dell'Unione Europea, della Commissione Europea. Questo va al di là delle obiezioni mosse sulla legge di bilancio, di cui parleremo più avanti dopo il meteo e la borsa. Unione Europea e Italia stanno trattando sulla flessibilità per il post terremoto. La Commissione si dice pronta ad aiutare e conferma la possibilità di investire in prevenzione antisismica fuori dal patto di stabilità, cioè non con una spesa che non verrebbe calcolata nel deficit, da il deficit diciamo che viene poi giudicato da Bruxelles e dal patto di stabilità. È prevista dal gennaio del 2015 questa possibilità. Ogni valutazione, però, aggiunge Bruxelles, sarà fatta sulla base dei nuovi dettagli forniti dal governo. Non c'è nessun braccio di ferro. E anche il premier Renzi ha detto migranti, sisma e scuole sono eventi eccezionali. Intanto però, ripeto, l'insoddisfazione riguarda non tanto l'elemento del sisma, ma il tipo di risposta che l'Italia ha dato ai rilievi già fatti da Bruxelles. Faccio notare che il nostro spread, e qui non c'entra nulla obiettivamente il terremoto, è tornato a 150 punti base sopra quello spagnolo ed è il livello più alto, siamo ancora a un livello per carità assolutamente accettabile, però è il livello più alto dalla Brexit in poi. Allora, adesso abbiamo meteo, pubblicità, poi la borsa e poi parliamo appunto dei rapporti Roma-Bruxelles. 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. ...17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa e poi la dialettica, chiamiamola così, Bruxelles-Roma. Intanto vi riaggiorno sullo spread a proposito del tema, del prossimo tema. È toccato i 157 punti, i massimi da giugno scorso. Il rendimento del BTP a 10 anni sarà l'1,75% per la prima volta dal febbraio scorso. E si amplia, come ricordavo, anche la differenza con la Spagna. Devo dire che questa differenza era già ampliata anche quando si era già ampliata anche quando la Spagna non riusciva ancora ad avere un governo, adesso ce l'ha fatta. Questo perché? Perché l'incognita referendum, inutile girarci attorno, e diciamo, tenuta e stabilità dell'Italia preoccupava più di quella economica e anche bassa crescita dell'Italia rispetto alla crescita spagnola, preoccupava di più. Comunque i bonus viaggiano a 110 punti e invece noi rispetto al Bund tedesco noi a 157 punti. Eleonora Micheli, partiamo prima dalla borsa. Il piano passerà, non c'è più, il piano passerà, diciamo, nel senso che l'ha ritirato lui stesso, dicendo, l'abbiamo spiegato prima, che non gli erano state date le garanzie per andare a vedere dentro i conti. La due diligence ha risposto a Monte dei Paschi, comunicato abbiamo già letto. Il titolo alla fine però guadagnava anche in maniera abbastanza consistente, chiude con un rialzo comunque dello 0,70%. Sì, esatto, Monte dei Paschi è salita meno di quanto avesse fatto nel durante della giornata, comunque è uno dei pochi titoli che ha chiuso in bancari, territorio positivo. Sì. Del resto c'è innanzitutto grande attesa per domani, che si terrà a Milano un consiglio di amministrazione della banca. Non sarà presente l'amministratore delegato Morelli, visto che è in giro per il mondo a cercare Anchor Investor, ma il mercato scommette proprio che magari emergano dettagli sull'esistenza di investitori che siano interessati a entrare nel capitale dell'istituto senese e dunque che diano lo slancio poi per il piano di rilancio dell'istituto, che ricordiamo sarà approvato dall'assemblea del prossimo 24 di novembre, per cui è già scattato il conto alla rovescia. Ancora altri titoli, invece oggi fa notizia soprattutto CNH, Case New Holland Industrial, meno 5,30%, ed ST Microelectronics meno 3,91%. Devo dire che anche la Ferrari perde un 2,80%. Ma sì, tutti i titoli che peraltro sono peggiorati nel pomeriggio, quando Wall Street ha iniziato ad andare male, quindi quando tutte le borse europee hanno ampliato le perdite. Poi che dire, oggi in una giornata comunque festiva si va a vendere quei titoli che nei giorni scorsi erano saliti, dunque portando a casa un guadagno. ST Microelectronics ad esempio in tre sedute aveva fatto un guadagno di oltre il 20%, evidentemente c'è chi ha deciso di portare a casa il risultato. Su questo faccio notare che Wall Street, molti commentatori dicono che sia così incerta, meno 0,44, per la nuova incertezza che si è riaperta sull'esito della campagna elettorale presidenziale americana, il netto recupero di Trump nei confronti della Clinton dopo l'apertura dell'inchiesta dell'FBI sulle famose mail e non solo. Comunque torniamo invece a noi, più contenuto il calo di altri titoli, visto che citavamo Case New Holland, faccio notare che Fiat invece perde solo l'1%. Telecom fino a buona parte della seduta si era mantenuta positiva. Tra l'altro venerdì esce la trimestrale, Eleonora. Esatto, per quanto riguarda Fiat si può dire che oggi è emerso che in America a ottobre le vendite sono calate del 10%, ma il titolo non ha subito contraccolpi. Invece Telecom è andata giù proprio sul finale e comunque ha arginato la perdita allo 0,13% fino a pochi minuti, secondi prima della chiusura di Piazza Affari era in terreno positivo per due motivi. Primo, perché sale l'attesa per la trimestrale che verrà approvata dal Consiglio di amministrazione questo venerdì e poi illustrata alla comunità finanziaria lunedì. Secondo numerosi analisti la trimestrale dovrebbe mostrare il miglioramento dei conti dell'azienda, sia dal lato dei costi, che sappiamo sono già iniziati con la cura Cattaneo, sia anche dal lato dei ricavi. Come peraltro aveva indicato di recente lo stesso amministratore delegato Flavio Cattaneo. Comunque nella notte peraltro anche la controllata brasiliana Tim Partecipasoe ha pubblicato i conti di bilancio, che ahimè hanno visto scivolare l'utile del 48%. D'altra parte in questo caso l'utile, sebbene ha registrato diciamo una flessione consistente, è stato migliore rispetto a quello che si aspettassero gli analisti e dunque proprio per questo è stata premiata la stessa controllante Telecom Italia. Allora, andiamo come sempre sui migliori e peggiori, do ancora qualche titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Atlantia meno 2,50, Mediolanum meno 2,20, Prismian meno 2,20 come Jux e Taporte ricordati, chiudo con Terna meno 1,90, Ubibanca meno 1,80 come Unicredit e Buzzi. Unicem, migliori e peggiori in assoluto, in una seduta come tu ricordavi sostanzialmente festiva, TAS più 14%, e eccolo qua, e Media Contact più 19,40, Gala più 9,50, Poligrafici Printing più 6,40. Fronte opposto, Molmed meno 5,60, appunto Case New Holland meno 5,30, Sintesi meno 5%, Deutsche Bank meno 4,32%. Grazie a Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi cambiamo tema, o meglio, il tema l'abbiamo già annunciato, e mi riferisco al malumore, diciamo, di Bruxelles, dell'Unione Europea, alla risposta che noi come Italia abbiamo dato alla loro prima lettera. Allora, la manovra, questo chiaramente al netto, lo ripeto per la terza volta, delle valutazioni su il danno e i nuovi stanziamenti che il nuovo sisma richiederà e i flussi migratori. No, c'è qualcosa che va oltre, secondo me si sta arrivando su un piano anche prettamente politico, oltre che di contenuto. Perché lo dico? Perché c'è tutta l'intenzione di arrivare a una soluzione che tenga insieme le esigenze dell'Italia di mettere maggiori risorse possibili per gli interventi post-terremoto e quella però dell'Unione Europea di dire ok, gli interventi terremoto e post-terremoto sono una cosa, ma il rispetto delle regole va mantenuto. C'è l'ipotesi di fruttare il Fondo Europeo per gli investimenti strategici e di inquadrare in questo contesto il piano per la messa in sicurezza del territorio, e va bene, e questo è previsto dalla flessibilità di inizio 2015. Perché? Perché in quel documento, appunto approvato nel gennaio 2015, si prevede la possibilità di non conteggiare nel deficit, che poi viene valutato da Bruxelles, alcune spese effettuate nel quadro del FEIS, del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, e vengono citate esplicitamente anche un insieme di regole, di spese dove rientrerebbero anche i nostri drammi, le nostre tragedie. Però ripeto, la sensazione è che al di là di questo ci sia qualcosa di più, perché le accuse che arrivano da Bruxelles alla lettera, alla nostra risposta, sono di populismo a buon mercato e di tecnocrazia. Magari mi sbaglio, magari sono troppo malizioso, chiedo conferma all'economista Francesco Daveri, che insegna all'Università Cattolica di Piacenza. Buonasera Daveri. Buonasera. Sta arrivando a un piano quasi politico più che, diciamo, di contenuto economico? Certo che adesso con il terremoto è alle prese con questo secondo o terzo terremoto la cosa si complica, però io non ho ben capito se quasi tutti sono d'accordo che si possono mettere queste spese extra emergenziali dentro il cappello del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici. Perché c'è ancora, diciamo, così tanto attrito? Indubbiamente il problema esiste, perché se uno legge le lettere che avevano mandato prima Moscovici e Dombrovski e la risposta di Padoan, la sensazione che ho avuto io leggendole è che parlassero due lingue un po' diverse. Secca la lettera degli europei, molto lunga, piena di dettagli, per carità eravamo noi gli interrogati, quindi era normale dare dei dettagli, però fondamentalmente il punto importante sottolineato dall'Europa era: voi in maggio, cioè non un secolo fa, in maggio 2016 avete promesso di ridurre almeno dello 0,6 il disavanzo, il deficit strutturale, cioè quello al netto delle sfortune e fortune del ciclo economico. E invece noi qui ci ritroviamo nel documento che ci avete mandato un aumento di 0,4, quindi anziché ridurre dello 0,6 c'è un aumento dello 0,4, vuol dire che c'è un punto percentuale di PIL che balla. La risposta che viene data dall'Italia è stata, primo, che il deficit strutturale, una roba un po' tecnica, non bisognerebbe calcolarlo come si fa in Europa, bisognerebbe usando altri metodi, vengono fuori dei numeri diversi più favorevoli all'Italia. Già questo uno si è perso un po', insomma, nella risposta. Però rimane il fatto che questa è una prima difesa. L'altra difesa è abbiamo avuto spese straordinarie per lo 0,2% per l'immigrazione e poi ci sono delle altre voci che sono per un altro 0,2% che sono dovute più o meno al terremoto. Però di fatto non c'è, secondo me, il fatto di... mi sembra che le due lettere parlino una lingua diversa, questo è un po' il punto, e forse allora il problema effettivamente è più di carattere politico, cioè che l'Europa non ha ancora ben deciso quanto ci lascia fare, perché in effetti è una situazione abbastanza nuova, cioè che non si è verificata. L'idea che ci siano dei terremoti che diventano un elemento quasi strutturale ancora più che emergenziale, questo è vero che le spese per i terremoti emergenziali sono previste, come ci hanno ricordato, sì. Però se i terremoti a questo punto diventano una cosa che nessuno li può prevedere, però sì, purtroppo è un po' come il ragionamento che si fa con i flussi migratori, cioè non possiamo prevedere che l'anno prossimo non avremo di nuovo una gestione di emergenza dei flussi migratori. E Daveri, resti con noi perché adesso ho il traffico. Lei ci conferma appunto che ci sono due linguaggi diversi e le chiederò appunto una cosa che arrivo a capire anch'io, e cioè noi abbiamo sforato il deficit strutturale, appunto quello, il deficit che tu porti a casa al netto del ciclo economico, che può essere favorevole oppure può essere un ciclo economico esterno negativo, quello che diciamo non tiene in considerazione l'ambiente economico esterno. Io non ho capito, ma noi l'abbiamo sforato già con all'interno la parte emergenza migranti e terremoto, o l'abbiamo sforato prima ancora di arrivare a quelle due emergenze? La risposta dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento, state ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul forex. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia in questa edizione estiva. Estiva, buonanotte, festiva. Buonanotte, veramente. Daveri, ripeto, non è un tecnicismo, perché i tecnicismi sono quelli, ed ecco perché Bruxelles ci dice, insomma, avete fatto una lettera dove c'è molto populismo, buon mercato e molta tecnocrazia e tecnicismi. Però sapere se questo scostamento da quello che avevamo promesso sul deficit netto è dovuto al fatto che abbiamo dovuto spendere dei soldi per flussi migratori e terremoto oppure no, non è un dettaglio, mi sembra che politicamente anche tutto lo scontro sia lì. Sì, ma in realtà non li abbiamo già spesi, no? Qui il conflitto è sul 2017, no? Quindi è riguardo al 2017, però è un po' la risposta, secondo me, che viene dal nostro Ministero dell'Economia, che crea questo problema di interpretazione, perché nella risposta di Padoan c'è scritto che noi abbiamo bisogno, dobbiamo sforare rispetto a quanto avevamo previsto, perché dobbiamo fare queste 0,2% per il terremoto di PIL e 0,2% 0,25% per i migranti. Quindi cioè circa 6 miliardi di fronte all'obiezione che ci fa Bruxelles, che ci dice voi avete sforato per un 1% rispetto a quanto dovevate fare. E la nostra risposta è che lo 0,4 di questo 1 è spiegato da questo. E manca lo 0,6, come capisco. Manca io. Comunque un altro 0,6, che però lì Padoan entra sui tecnicismi, cioè dice ma no, è perché voi non ci calcolate bene quanto noi potremmo fare, noi in realtà siamo messi molto peggio a causa della crisi rispetto a quanto potremmo fare, e quindi dovreste riconoscerci la possibilità di fare più deficit praticamente. No, guardate, voglio rispondere, mi scusi Daveri, agli ascoltatori che scrivono al 349-238-6666. Io non ho personalmente cambiato idea, questo programma da anni sostiene che l'austerità fosse un errore fatta in quel modo, cioè austerità senza investimenti, e che l'Europa dovesse cambiare passo. Per cui io ritengo che se si va, diciamo, se si dovesse andare a uno scontro anche con l'Europa sui temi, diciamo, di ciò che serve alla crescita di un paese, ben venga. Qui però il tema è leggermente diverso, e cioè si stanno parlando o parlano due linguaggi diversi? Da come ce la sta raccontando l'economista Daveri, sono due linguaggi diversi. Tu mi chiedi come mai, tu Bruxelles chiedi a noi Italia, come mai abbiamo uno scostamento tra lo 0,6 di deficit strutturale che dovevamo far calare e lo 0,4 che mettiamo in più di un punto percentuale, e io ti rispondo: ho speso 0,4 per terremoto e migranti. Ok, ma un punto percentuale di scostamento vuol dire circa 15-16 miliardi, tu stai rispondendo solo su 6 miliardi, se capisco bene Daveri. Secondo lei, io lo chiedo a tutti gli ospiti su questo tema, come si risolverà la vicenda? Lo spread oggi italiano è tornato a 157 punti, un livello che non vedevamo da giugno, da Brexit, e un rendimento del BTP a 10 anni che è ai massimi da febbraio. In una battuta, come si chiuderà? Con nuove lettere? Sì, credo che ci sarà un'altra puntata. Lo spread sale per tante ragioni, sì, sale certo. Anche per il Monte dei Paschi, perché si avvicina il referendum, un referendum in cui no forse vincono sui sì, o molto probabilmente vincono sui sì. Quindi ci sono tante cose, certamente in metterci in mezzo anche un litigio con la Commissione europea sulla legge di bilancio del 2017 non è una cosa che tranquillizza i mercati. Poi magari può valer la pena di litigare, però certo. Il litigio sullo 0,2 forse non è proprio la cosa perché vale la pena. Cioè se devi litigare, litiga per una posta ancora più alta. Ho capito il suo messaggio, grazie anche a Francesco Daveri che insegna alla Cattolica di Piacenza. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio al nostro GR e poi a una puntata di Dylan Dog, per chi dovesse perdere, sono bellissime, lo dico da lettore di Dylan Dog, per cui Dylan Dog per radio non era ancora stato fatto, provate ad ascoltarlo, poi mi darete anche un giudizio. Noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi.